Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah, yeah. Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio. Il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura. Fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltrepò negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione, e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella ERE di Stradella, questa eccellenza mondiale della costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità. Sigma Radio Oltrepò sugli 89 e 600. Sigma Radio Oltrepò sugli 89 e 600. Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti. Buongiorno Graziano, benvenuto. Ciao. Dalle mie parti. Ciao Luca, è un piacere essere qui nella tuo bunker. È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì. Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo, in TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco, che è tua, è roba tua, è casa tua. Grazie, mi fa molto piacere, bene, bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino, esattamente quello che stai tirando fuori dal cassetto tu, è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno, insomma, a farlo apposta, esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto via in questa azienda qua che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. E intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono, e intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è certo, vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere. Assolutamente sì. E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore, e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. Pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli, e poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee. È vero, effettivamente era una delle poche realtà europee. Perché non... I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sempre una cosa ridicola, che, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima degli altri. Prima degli effettivamente altri. È vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia. Esatto, quindi è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri. C'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo, a parlarne con piacere, no, infatti, e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste. Loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro, cioè c'è stato fatto un lavoro veramente, sono state tre persone che si sono ben mischiate, e il risultato è stato interessante. Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora. L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale. Certo. E quindi il marchio Aere esiste ancora, e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile ovviamente produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato. Già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non infatti lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5, sì, e in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste sì, aziende, certo, che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche, e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori, che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti. E quindi avendo questa azienda su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità oltretutto. Le ditte che fanno le scatole d'imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta. Sì, quindi molto vicino, esatto, sempre a Stradella. E tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose, certo, per noi. Quindi che Broni è appena dopo Stradella. Attaccato Stradella, certo, ci sono proprio, sì, praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una sì, città, è quasi sola, la stessa cosa, adesso come adesso, ai tempi no, adesso no, sì. No. C'è sempre stato un po' di astio, sì, beh, quello tipico classico campanilismo di paese, certo, però poi in realtà si è sempre cercati di scegliere le ditte dove meglio ci, certo, si trovava. Ma grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima. Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'Aere ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.